Raffaele Garofalo, giurista, senatore del Regno, fu il primo presidente della Corte di Cassazione italiana. Pubblicò vari libri, fra i quali andrebbero ricordati La superstizione socialista, oppure Le idee sociologiche e politiche di Dante, Nietzsche e Tolstoi, un bel confronto, e la criminologia pubblicato nel 1885. La criminologia è il primo libro in cui esplicitamente si parla di questa nuova disciplina scientifica, conferendole una sorta di autonomia. La cosa era nell'aria da tempo. Già sul finire del XVIII secolo in Europa la concezione del crimine stava cambiando, tanto da consentire l'ingresso della psichiatria nelle aule dei tribunali. Il vecchio modo di comminare le sanzioni in base alla gravità dell'infrazione e alla colpevolezza morale dell'imputato cominciava ad apparire inadeguato in rapporto alla concezione dell'agire umano e delle responsabilità relative. Altre variabili venivano messe in gioco, nonostante il libero arbitrio, pietra angolare del sistema giuridico e religioso, fosse sempre fatto salvo. Esiste allora il criminologo. Mentre non esiste ancora, per esempio, uno specialista che studi il comportamento di chi fa della beneficenza o di chi butta le cartacce negli appositi cestini o di chi va, non so, di chi va in vacanza alle Seychelles. Perché esiste il criminologo è chiaro. I comportamenti di pertinenza di chi commette quel che la sua società in quel momento ritiene essere un crimine vengono ritagliati via dall'insieme degli altri comportamenti, dando loro uno statuto speciale, trasformandoli in oggetto di un sapere altrettanto speciale affidato ad uno specialista. E con ciò, il corpo sociale può continuare a respirare ai pieni polmoni del sollievo, no? È presupposta una specificità del criminale che lo rende imperituramente diverso da tutti gli altri che criminali non sono. Il delitto può quindi essere ascritto, che so, alla forma del cranio, alla quantità di piombo nella tibia, alla tabe ereditaria, al gene dismesso, al gene malmesso, fino anche all'educazione o alle disastrate condizioni sociali, e a che sia di patologizzabile e di medicalizzabile, può essere ascritto tutto ciò, ma mai alla nostra sana esperienza quotidiana di quella normalità che spesso, se non sempre, si identifica nell'obbedienza cieca a regole imposte da altri. Per chi si ponesse il problema di sapere cosa fa un criminologo, ecco, oltre a cantare televisivamente nel coro psicosociologico di regime in cui si forgiano i modi dei delitti prossimi venturi, coniando al contempo le categorie diagnostiche in grazia delle quali classificarli, per chi si ponesse la domanda cosa fa un criminologo e fosse tentato di rispondere che, non so, magari che il criminologo, date le responsabilità che si assume sulla vita altrui, amministrerà di certo una scienza complessa e profonda, di non facile accesso, un sapere arduo e frutto di lunghi e faticosi studi, trarrò dalla storia della sua disciplina qualche modestissimo esempio. Per esempio, il caso Moro. Dal 1978 ad oggi, a quanto mi consta, le lettere inviate dal leader democristiano durante il rapimento di cui fu vittima da parte delle Brigate Rosse sono state analizzate a più riprese. Anche dal punto di vista di quella scienza grafologica che sta al paniere del buon criminologo come l'acqua ossigenata sta all'armadietto del pronto soccorso o come gli asparagi stanno all'omelette alla Du Barry. Bene, o meglio, aspettiamo a dirlo. Le analisi del 1978 rivelarono che lo stato d'animo di Moro prigioniero era sostanzialmente tranquillo, che nello scrivere le parole Repubblica e Presidente trasudava rispetto, che la grafia non era quella di un uomo rassegnato, che non era depresso e che soprattutto Moro non era sotto l'effetto di droga alcuna, che anzi sembrava proprio dalla scrittura che lui stesse cercando di padroneggiare la situazione. Le analisi del 1993, stesse lettere 15 anni dopo, invece parlano di un Moro in condizioni psicofisiche men che perfette. La sua scrittura avrebbe rivelato episodi di ansia a canalizzazione largamente ipocondriaca con fenomeni neurovegetativi e di reazione depressiva. Nonché, ma guarda un po' come le cose cambiano, nonché il fatto che Moro fosse imbottito di psicofarmaci. L'abilità del criminologo del poco senno di molto poi era tale da comprendere perfino la qualità degli psicofarmaci in questione. Pensate, appartenevano al gruppo dei neurolettici e specificamente del gruppo dell'alloperidolo o alloperidolo, va. Per altro esempio il caso Doretta Graneris e del suo fidanzato Badini, autori di una strage familiare a Vercelli nel 1975. Criminologi psicosapienti somministrano al giovane il test delle cosiddette macchie di Rorschach. Spiego. Hermann Rorschach era lo psichiatra svizzero che nel 1911, sull'onda degli studi psicanalitici di Bleuler, escogitò il mezzo di utilizzare macchie casualmente originate su un foglio di carta a fini diagnostici. Per farla breve, istruzioni per l'uso: prendete un foglio di carta, impiastricciatelo nel centro con inchiostri vari, piegatelo in due perché l'inchiostro si espanda bene su entrambi i lati, lasciate asciugare e alla fine avete una bella macchia di Rorschach con la quale diagnosticare patologie psicosociologiche al vicino di casa. Gliela mettete sotto il naso, gli chiedete: cosa vedi? Cosa vedi? Dai, cosa vedi? Poi seguite il vostro buon senso e non risparmiate la fantasia. Badini, davanti alla prima macchia, ha detto: è un pipistrello con le orecchie da coniglio. Il criminologo ha prontamente annotato: natura chiaramente psicotica. Nella seconda macchia ha visto figure con volti da pagliaccio. Il criminologo ha annotato: incapacità a intraprendere un rapporto esterno alla propria soggettività e tendenza alla deformazione della realtà. Non so se mi spiego, una malattia che sta alle macchie di Rorschach almeno come l'ipocondria sta al prigioniero. E nella terza macchia, ahi lui, ha visto due donne e un uomo. Non l'avesse mai fatto. Il criminologo ha notato caoticità della sua vita sessuale. Ancora una. Badini, che evidentemente voleva farsi del male anche lui. L'ultima macchia ci vede un missile che parte lasciando dietro di sé una scia. Madonna. Il criminologo tocca il cielo di questo missile con il dito e annota tendenza all'omosessualità. Per ultimo esempio di come passa il tempo un vero criminologo, vi parlerò del professor Renato Novelli e della sua mirabolante invenzione realizzata in combutta con psicosapienti del terzo tipo. Si era sul finire degli anni 60 e per tranquillizzare la borghesia inquieta dei pessimi segnali all'orizzonte, I giornali diedero ampia diffusione alla notizia circa la prossima soluzione di tutti i suoi problemi. Era già in avanzata fase di costruzione lo psicotronico, detto scherzosamente Flit, per raffinata analogia con la famosa pompetta cui avevamo affidato un tempo la nostra illusa speranza di liberarci di mosche e zanzare. Lo psicotronico era una macchina idonea a captare il pensiero criminale nel raggio di 26 chilometri, mai 25, mai 20, mai 30. L'inesattezza fa parte, in fin dei conti, della garanzia scientifica del risultato. Il mariolo, per esempio, il mariolo che fosse uscito di casa con l'idea di far sparire una mela dalla cassetta del fruttivendolo, zacchete, finiva immediatamente tradotto in segnale luminoso sullo schermo del radar e, zacchete zacchete, preso al volo preventivamente dalle forze dell'ordine. Il professor Novelli e la sua equipe promettevano psicotronico in ogni zona nevralgica. 40 milioni a botta era il costo e il cittadino probo poteva dormire sonni tranquilli. Il professore aveva pensato proprio a tutto, anche alla malaugurata eventualità che la macchina ammazza cattivi, come l'aveva ottimisticamente battezzata al Corriere della Sera, potesse finire in cattive mani, come si suol dire, cioè nelle mani di quegli stessi di cui tanto interessavano innanzitutto i pensieri. Perché grazie ai suoi circuiti logici più virtuosi di un serafino, la macchina si sarebbe autodistrutta in un improvviso tripudio di liquame che, come in un fumetto, avrebbe lasciato i malintenzionati sporchi e imprecanti. Poi lentamente sullo psicotronico è calata la cortina del contegnoso silenzio, ma il pensiero che ogni 26 chilometri ce ne sia uno in funzione, beh, può continuare a rallegrare il cuore degli onesti. Ecco fatto. Di cose di questo genere è densa la vita intellettuale del criminologo. La prima analisi grafologica delle lettere di Moro fu eseguita e pubblicizzata durante la prigionia di Moro. Dopo le varie diagnosi, contraddette serenamente molti anni dopo, come abbiamo visto, il criminologo in questione asseriva anche che in quella scrittura erano probabilmente celati dei messaggi. Messaggi che, tuttavia, al momento non aveva intenzione di rivelare per non danneggiare il prigioniero. Anche allora, come oggi, evidentemente, chi si occupava di reati ci metteva più del suo che poteva perché venissero commessi.